se il cielo inargentato di Siviglia fosse in fiore, tu sai mio. Ad un canto appassionato che discende fino al cuore,